24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:27 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9, ancora una buona giornata. E allora di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Ve l'anticipo subito. Parliamo delle rivelazioni di questo sito Wikileaks, rilanciato da alcuni organi di stampa internazionali, il New York Times, il Guardian, Der Spiegel. 92.000 file segreti pubblicati sulla guerra in Afghanistan negli ultimi 10 anni, ma a dire la verità negli ultimi anni fino al 2009. Che ne pensate? È stata una scelta giusta quella di pubblicare, perché l'autore di questo scoop dice il mondo deve sapere. Ieri Obama ha detto un'inchiesta penale è messa a repentaglio anche la sicurezza dei soldati americani in Afghanistan. Secondo voi invece è giusto pubblicare tutto, è giusto far sapere oppure no? Radio24.it nell'home page, bianco o nero, votate lì, ne parleremo poi alle 8:30 con ospiti. Ed ora, come di consueto, i giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 28 luglio, sono due le scelte dei giornali per le aperture. Il Sole 24 Ore apre sulla situazione Fiat, e vi ricordo che Oscar Giannino ne parlerà, come abbiamo sentito, alle ore 9. La Fiat vara la New Co., vale a dire la new company che è nata, che si chiama Fabbrica Italia Pomigliano. Intanto vicino l'accordo in Confindustria per restare in Federmeccanica. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Mentre l'attualità politica, che sembra davvero una svolta tra Berlusconi e Fini, è la scelta di tutti gli altri grandi quotidiani come aperture. Verdini ai PM, fece tutto dell'Utri. Questa è l'apertura del Corriere. P3, un altro indagato nel governo per Repubblica. La Stampa, governo, un altro indagato, è il sottosegretario Caliendo. Fini ai giorni contati, così titola Libero. Il Messaggero, Verdini chiama in causa dell'Utri. Mentre il Fatto Quotidiano si lancia sulla vicenda Milano e le inchieste, la droga, notti bianche, Milano trema. L'apertura dell'Unità invece si mette in primo piano il birillo Caliendo in bilico, vergogna senza fine. Sullo sfondo si vedono gli altri tre birilli che sono caduti, Brancher, Cosentino, il terzo non me lo ricordo neanche, insomma sulle dimissioni che ci sono già state. Mentre per la prima pagina del giornale bisognerà fare un'ampia pagina più avanti, perché il giornale ha uno scoop: Fini, la compagna, il cognato e una strana casa a Monte Carlo, e tra poco lo vedremo. Come detto, sullo sfondo dell'inchiesta giudiziaria che vede indagato il sottosegretario Caliendo e quattro, così scrive il Corriere della Sera, dopo Verdini, Dell'Utri, Nicola Cosentino, ecco qual era il terzo birillo segnato dall'Unità caduto e che si è dimesso da sottosegretario, c'è ora Giacomo Caliendo, che finisce nell'inchiesta sulla loggia come indagato per associazione segreta. È Goffredo Buccini su Il Corriere della Sera, pagina 5, che in qualche modo ne tratta un profilo, qualche scambio di battuta, non è una vera e propria intervista. Caliendo, sono ancora sotto shock, non capisco perché mi hanno iscritto nel registro degli indagati. Tutto, insomma, ruota attorno a questa cena a casa di Verdini, il famoso, anzi, pranzo settembrino a casa Verdini nel Palazzo Pecci Blunt, dove spunta anche Flavio Carboni. Ma io sono rimasto lì solo mezz'ora, avevo un impegno in commissione, sono andato lì perché mi ha invitato Pasquale Lombardi, una delle persone che è stata arrestata, e che ha detto mi ha invitato lì all'indomani di un convegno, sono andato, mi disse che dovevamo parlare del lodo Alfano, e si chiede Goffredo Buccini, chissà se ci crederanno gli ex colleghi della procura, perché è un magistrato Caliendo, ex magistrato, ma in 30 anni Pasquale Lombardi non mi ha mai chiesto niente, insomma sono stato lì solo mezz'ora. Il mio guaio, confermano anche, e il guaio di Caliendo, conferma qualche suo collaboratore, che non sa dire di no, è un generoso con tutti, capace di stare 5 ore a parlare col cameriere del ristorante. Non ho proprio niente da nascondere. Ovviamente l'opposizione si chiede, vergogna senza fine, per esempio l'Unità, quando si dimette, insomma sarebbe il quarto che si dimette nel governo appunto dopo Cosentino, dopo Brancher e dopo, ma spunta sempre un nome che mi manca quando li elenco. E allora l'altra notizia sullo sfondo sempre di questa inchiesta è la pubblicazione da parte sempre del Corriere della Sera, pagina 3, con Fiorenza Sarzanini, di ampi stralci dell'interrogatorio di Denis Verdini. Ieri è stato interrogato Dell'Utri, che però non ha risposto ai magistrati. Ha detto: ho imparato dopo Palermo, ho imparato come si fa. Sta di fatto che secondo i verbali di Verdini ha tirato in ballo proprio lo stesso Dell'Utri. Ecco il titolo del Corriere della Sera: gli incontri su Lodo Alfano e soldi, fu Marcello a organizzare tutto. Non conoscevo Lombardi, non conoscevo Martino, due degli arrestati, fu Marcello Dell'Utri a portarli a pranzo a casa mia. Con lui siamo amici da una vita, è una persona carismatica. Se viene qualcuno con qualcuno a pranzo, che dovrei fare? Non posso chiedere certo i documenti delle persone che lo accompagnano. Così inizia l'interrogatorio di Denis Verdini, un interrogatorio che scrive Fiorenza Sarzanini è durato 9 ore, ma solamente perché, dice l'avvocato di Verdini, Franco Coppi, è stata fatta la verbalizzazione a mano e soltanto per questo motivo l'interrogatorio è durato così a lungo. Si è parlato soprattutto delle vicende sull'eolico, delle vicende sulla banca, i passaggi sulla banca, da dove tra l'altro Verdini si è dimesso come presidente e Tremonti ha firmato il decreto per il commissariamento, il credito fiorentino. Si è parlato del Lodo Alfano, si è parlato anche del dossier famoso inventato contro Caldoro per screditarlo, no? Caldoro, presidente della regione Campania, andava a trans, questo era il succo del falso dossier fatto circolare. Verdini ricorda in chiusura dell'articolo di Sarzanini appunto questo dossier che girava con nomi di appuntamenti, alberghi, chiamammo Caldoro, gli chiedemmo conto, chiamai Caldoro, lui si disse sdegnato e io e Berlusconi abbiamo deciso di credergli e dargli fiducia. In realtà, tra l'altro, la chiusura quasi di colore, fuori verbale, Verdini aggiunge un dettaglio: Caldoro mi disse che semmai il suo problema potevano essere le donne. E io gli risposi: non lo dire a Berlusconi, altrimenti ti fa ministro. Questa è la chiusura dell'articolo di Fiorenza Sarzanini. Sta di fatto che sullo sfondo di questa inchiesta, perché io ho detto che potrebbero essere i giorni davvero del Red Rationem tra Berlusconi e Fini? Perché questo dicono i giornali. La rottura ormai è definitiva. Questo è il Corriere della Sera. Il Foglio, aria di tempesta nel PDL. Per Libero, Fini ai giorni contati. Ci sarebbe, secondo Francesco Verderami del Corriere, anche tutto segnato di come e quando andrà a finire. Secondo Verderami, segnatevi questo giorno, venerdì sarebbe il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio come avverrebbe? Avverrebbe così. I mediatori hanno fatto un passo indietro ormai da tempo, scrive Francesco Verderami. La crisi tra Berlusconi e Fini sembra davvero sul punto di essere ufficializzata. E come dovrebbe essere ufficializzata? Berlusconi avrebbe individuato le modalità per scacciarlo di casa. Venerdì, il giorno del giudizio, l'inizio di un rito che verrebbe celebrato in Parlamento con un discorso del Premier sull'uso politico della giustizia. Cioè, secondo il Corriere della Sera, Berlusconi starebbe preparando un discorso da pronunciare su che cosa? Sull'uso strumentale della giustizia da parte dei magistrati, da citare alla Camera. Una volta incassato il sì con la fiducia alla manovra, una volta incassato il sì a questo importante provvedimento, ecco che ci sarebbe o questo discorso alla Camera. Repubblica dice non si sa bene invece quale possa essere il percorso, ma potrebbe essere già domani, non venerdì ma domani, secondo Francesco Bei, il colpo finale contro il suo avversario interno. Si conosce soltanto la data, sembra che abbia cerchiato già in rosso sulla sua agenda il Premier la giornata di domani, proprio messa in salvo la manovra e la riforma dell'università. Berlusconi ha deciso di dar corso a qualcosa di clamoroso, secondo Repubblica. Secondo il Corriere, questo qualcosa di clamoroso potrebbe essere un discorso che il Premier starebbe già mettendo a punto negli ultimi dettagli per arrivare appunto a pronunciarlo sulla questione legalità e in qualche modo, qualcuno dice, stanare su questo tema Fini. Io a questo punto devo prendere in mano il giornale. Come detto, il giornale in prima pagina ha uno scoop che Gianmarco Chiocci firma da Monte Carlo. C'è una foto in prima pagina di Fini e la sua compagna Elisabetta Tugliani ritratti in spiaggia. Il titolo è questo: Fini, la compagna, il cognato e una strana casa a Monte Carlo. Tutto nasce, secondo Gianmarco Chiocci del giornale, da un lascito della vedova Anna Maria Colleoni, fascista convinta, benefattrice del patrimonio di AN, che quando morì lasciò un'ampia eredità al partito, tra cui un bel terreno a Monte Rotondo, e in questa eredità c'è anche un appartamento di 70 metri quadrati più terrazzo in un'elegante palazzina del Principato di Monaco. Tutta roba messa a bilancio e utilizzata dal partito nel 2001. Ebbene, secondo il giornale, per 7-8 anni questo immobile monegasco è rimasto abbandonato. 2 anni fa, improvvisamente, il palazzo ha preso atto che il locale disabitato aveva cambiato proprietario. Non più il partito, Alleanza Nazionale, bensì una misteriosa LTD, società offshore con sede in chissà quale angolo del pianeta. A sua volta si è rivolta a una sottoimpresa del colosso di costruzioni Engeco per svolgere i lavori di ristrutturazione e il committente dei lavori si chiama, scrive Gianmarco Chiocci, Giancarlo Tugliani. Per sapere se questo nome corrisponde al fratello della signora Elisabetta, compagna del Presidente della Camera, siamo andati direttamente a Monte Carlo e per capire l'esatta trafila che aveva fatto l'immobile, donato dalla discendente del condottiero Colleoni al partito, ceduto a una società offshore, poi finito nella disponibilità del presunto cognato dell'ex presidente di quello stesso partito a cui l'immobile era stato regalato, ci siamo premurati di chiedere ai diretti interessati. Al partito nessuno commenta, da Donato La Morte a Pontone, che sono i due responsabili, diciamo, del partito. Poi abbiamo chiesto a Monsieur Tugliani, che di nome fa effettivamente Giancarlo, corrisponde 2 gocce d'acqua al fratello di Elisabetta Tugliani. Siamo andate al 14 di Rue Princesse Charlotte, proprio accanto all'elegante Novotel. Abbiamo varcato l'uscio d'ingresso col nome Tugliani impresso sul citofono. Abbiamo suonato al campanello con l'appartamento con su scritto anche qui Tugliani. L'occupante ha prontamente risposto. Prima di aprire ha preteso di sapere chi fossimo: nome, cognome, professione, giornale di riferimento. Da quel momento l'inquilino non ha più parlato e ha chiamato anche la gendarmeria. Anziché rispondere a un paio di domande del giornale, ci ha denunciato alla sicurezza pubblica. Sono piombate le violanti. Giancarlo Tugliani ha parlato di inesistente violazione della privacy. Siamo finiti per 2 volte sotto interrogatorio, invitati a lasciare il Principato, foto segnalati al commissariato. Tanta solerzia. Perché? Finisce così con un però uno continua quello che rischia di diventare uno scoop o comunque un tormentone. Certo, io dico sempre, dacci oggi l'attacco quotidiano a Gianfranco Fini da parte del giornale, oggi con questo Gianmarco Chiocci che è andato a Monte Carlo, questo appartamento ricostruito dal giornale, la versione del giornale è questa, lasciato in lascito al partito e che da un paio d'anni, secondo il giornale, invece sarebbe proprietà di una LTD, committente dei lavori sarebbe il fratello della compagna di Gianfranco Fini. Ce n'è per anche nei prossimi giorni mettere a punto qualche interessante approfondimento. Io devo prendere in mano a questo punto invece Vanity Fair, che in genere non fa parte della nostra rassegna stampa, ma oggi la copertina di Vanity Fair è dedicata, è uno straordinario ritratto tra l'altro fatto da un bravissimo fotografo che è Machi Galimberti, di Roberto Saviano. Saviano, rivoglio la mia vita, questo è il titolo di questa intervista molto ampia che Silvia Nucini ha fatto allo scrittore di Gomorra. Perché lo cito? Perché in realtà questo ha già uno sviluppo sui giornali di oggi. Saviano parla un po' a tutto campo della sua vita, ma non solo, parla anche un po' di politica. Per esempio, il Sud è la ferita aperta attraverso tutto cui si fa passare. La Lega ci ha sempre detto che certe cose al Nord non esistono, ma le inchieste sull'infiltrazione dell''ndrangheta in Lombardia raccontano una realtà diversa. Dov'era la Lega quando questa succedeva negli ultimi 10 anni laddove ha governato? Perché adesso non risponde? Chiama in causa la Lega, Saviano. Io cito poi le interviste, cioè stralci interviste, poi vedremo i riflessi sui giornali. E ancora sulle critiche, ho moltissimi fan, ma anche molti detrattori. Questione di bile e un senso di colpa diffuso. Le storie che ho raccontato stavano sotto gli occhi di tutti. Perché io le ho raccontate e loro no? E poi fastidio, perché io ho 30 anni. Chi è visibile a 30 anni? Cantanti e calciatori. Poi parla ancora e risponde a Marina Berlusconi, presidente di Mondadori. Sul fatto pubblicherò ancora con Mondadori, resterò in Mondadori in Audi fin quando le condizioni di libertà saranno garantite fino in fondo. Certo, dopo l'attacco di Marina Berlusconi molto è cambiato, devo valutare molti fattori, perché quando la proprietà incide sulle scelte, quanto permetterà ancora che ci sia libertà su alcuni libri che si possa continuare a puntare. Marina Berlusconi dice che non si dovrebbero più scrivere libri che danno questa immagine dell'Italia. Allora forse non ha letto Gomorra. In Gomorra racconto storie di resistenza, soprattutto. Questi stralci, un'intervista molto intensa, 4 pagine che Vanity Fair ha fatto con Silvia Nucini a Roberto Saviano. La Lega attacca Saviano. Ecco qui le reazioni anche sul giornale, sul Corriere della Sera, un'intera pagina, pagina 19, la Lega molto arrabbiata con questa frase di Saviano, cioè dove era quando si parlava di 'Ndrangheta al nord. Saviano è accecato e reso sordo dal suo inopinato successo e dai soldi che gli sono arrivati in giovane età. Questo è il vice ministro Castelli della Lega. Oppure Carolina Lussana, non accettiamo lezioni di legalità dal signor Saviano. Borghezio, affermazioni assolutamente demenziali. Mentre Marina Berlusconi prende carta e penna, scrive una lettera pubblicata dal giornale. Carissimo Roberto, io ti rispetto e ti pubblico, ma tu accetta le critiche. È una lunga lettera che trova spazio anche all'interno, pagina 25. Marina Berlusconi dice: sono proprio i valori di libertà, rispetto, pluralismo a farmi ripetere ancora una volta che nessuno può ritenersi al di sopra delle critiche. Critiche che si possono condividere o meno, certamente sono cosa del tutto diversa dalle censure e dagli attacchi di cui Saviano parla. E sempre questi stessi valori mi hanno portato a non pensare mai e tantomeno ad affermare che non si debba parlare di mafia o non si debba pubblicare un libro piuttosto che un altro. Ho solo sostenuto e sostengo che sarebbe giusto evidenziare anche i successi senza precedenti che questo governo e quindi il nostro paese stanno ottenendo contro la criminalità organizzata. Detto questo, questa è la chiusura della lettera di Berlusconi, anche di Marina Berlusconi, un po' piccata. Ritengo Roberto Saviano un grande scrittore, ribadisco la stima nei suoi confronti, il più totale rispetto per il coraggio che ha avuto e il prezzo che sta pagando. Ci tengo anche ad aggiungere, non se ne stupisca l'autore, che Gomorra non solo l'ho letto, ma mi è anche piaciuto, l'ho trovato un libro forte, di pregio e di livello. Ma anche se non mi fosse piaciuto, nulla sarebbe cambiato. Quel che conta è che sia stato apprezzato da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, perché un editore davvero liberale sa sempre tenere rigorosamente distinte le proprie opinioni personali dalle scelte della sua casa editrice. Marina Berlusconi, questa è la lettera. Certo, questa intervista di Saviano fa molto discutere. Solo per chiudere con la politica, prima della chiusura, visto che si è parlato anche di Lega, trovate su Libero la chiusura e il traffico, poi riprendiamo con le altre notizie. Si è parlato di Libero, si è parlato di Lega, si deve parlare del trota, il trota Renzo Bossi. Sia su Libero, sia sulla Stampa, beccato, pizzicato, per chi ama un po' di gossip, con chi è uscito, e lei conferma, la pupa Elena Morali. O la pupa non è un'offesa, è una che ha partecipato a quel programma iperdemenziale, la pupa e il secchione, no? Quel programma in cui si mettono insieme le pupe, cioè delle maggiorate un po' stupidotte e dei nerd sfigati che però sanno tutto e sono dei secchioncelli. Renzo Bossi con la pupa Elena Morali, trota e pupa, rischia di diventare un altro tormentone gossipato dell'estate, il trota e la pupa. In primo piano arrivano una serie di messaggi a dire: Scaiola, Scaiola il quarto, dimenticavo Scaiola. Allora vediamo, erano Brancher, Cosentino e Scaiola, sono i 3 che si sono dimessi, giusto? Del governo. Oh, era Scaiola, come dimenticare la famosa casa. E allora, a fondo di Marchionne sulla NewCo, prendo in mano solo le 24 ore perché di Fiat, di cui parlerà approfonditamente Giannino, però voglio solo citare l'apertura del Sole, si chiama Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A., iscritta il 19 luglio al registro imprese della Camera di Commercio di Torino, e la NewCo, che dovrà assorbire dipendenti destinati a produrre dal 2011 la Panda. La società è controllata al 100% da Fiat Partecipazioni. Amministratore delegato Sergio Marchionne. Oggi sono giorni decisivi, oggi l'incontro col governo, domani l'incontro con i sindacati. A pagina 2 e 3 leggete tutto sul Sole 24 Ore, gli approfondimenti. Soprattutto il tema centrale è questo: c'è il rischio, possibilità, ipotesi che Fiat esca da Confindustria e dunque dal contratto nazionale? Questa è l'ipotesi ventilata. Secondo il Corriere della Sera, abbiamo sentito anche il GR24, oggi ci sarebbe un incontro riservato tra la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e il numero uno del Lingotto Marchionne. Si parlerebbe proprio di questo. Ci sarebbe anche una possibilità già individuata di evitare la fuoriuscita dal sistema confindustriale, sfruttare questa new eco senza bisogno di disdette, cioè basterebbe ricorrere alle deroghe previste dal contratto già firmato da CISL, UIL, UGL, niente CGL dunque, ma ovviamente questa è un'ipotesi, se è così lo si capirà dopo l'incontro tra i due. Secondo il Sole 24 Ore invece a pagina 2 l'ok è più vicino tra Fiat e Confindustria, cioè Nicoletta Picchio, c'è questa mediazione tra Marcegaglia e Marchionne proprio per far restare l'azienda all'interno di Federmeccanica, dunque all'interno del sistema confindustriale. Da questo punto di vista il Manifesto in prima pagina, rivoluzione industriale, questo è il titolo di apertura. C'è anche un commento di Francesco Paternò, che per la verità, dovessimo dar credito al fatto che invece da questo incontro Marchionne con Confindustria ci possa essere una ricomposizione, cioè una scongiurata fuoriuscita dal sistema confindustriale, questo commento è un pochino superato, perché, scrive Paternò, l'ultimo modello di Marchionne è uno schiaffo in faccia a sindacati, amici e nemici, al governo ombra di se stesso, a tutti i lavoratori, un modello che impone una nuova società per la fabbrica di Pomigliano, disdetta del contratto dei metalmeccanici, porta di fatto la prima industria del paese fuori da Confindustria, una Fiat rivoltata sottosopra, come fosse finita in bancarotta. La NewCo a Pomigliano permetterà alla Fiat di licenziare tutti, riassumere solo chi è d'accordo col nuovo contratto. La disdetta del vecchio contratto dovrebbe essere comunicata domattina ai sindacati. Significherà imporre le nuove regole in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo. In realtà, ripeto, oggi giornata decisiva, vedremo, ascolteremo anche con Oscar Giannino e vedremo se davvero ci sarà questa fuoriuscita dal sistema confindustriale, anche se i giornali, le anticipazioni, il Corriere, il Sole 24 Ore fanno pensare invece che da questo incontro tra il leader degli industriali e Marchionne possa portare a una strategia diversa. Trovate molto di Wikileaks, questo sito che sta facendo ammattire un po' la Casa Bianca. È vero che in questi 92.000 file segreti non c'è nulla di sconvolgente, cioè il Pakistan aiuta i talebani, e vabbè, sarà una notizia. Ci sono state anche stragi di civili con errori, in guerra sarà una notizia, cioè queste cose già si sanno, però certo che questo svelare tutti questi documenti, metterli a disposizione di tutti da parte di questo Julian Assange, che ha detto io voglio schiacciare i bastardi, riferito a chi vuole la guerra, eccetera, il mondo deve sapere che schifo è la guerra, fa discutere. È giusto far sapere a tutto il mondo con questi documenti segreti cosa sta succedendo in Afghanistan? Questo è il tema del nostro sondaggio, anche questo dunque un rapido accenno, perché poi ne parleremo alle 8:30. Mentre voglio andare all'inchiesta, agli sviluppi dell'inchiesta di quello che sta succedendo a Milano, gli ingredienti sono cocaina, locali, arresti e ora anche sesso, escort giovanissime nei due locali, sigilli messi peraltro tolti credo anche già all'Hollywood e al The Club, due discoteche molto famose a Milano. Ora sfruculando un po' nell'inchiesta, ecco che vengono fuori nuovi particolari. Per esempio, un nuovo particolare è che quello che mette in prima pagina oggi Elisabetta Canalis, fino a ieri insomma celebre per la liaison con George Clooney, sniffava anche la Canalis. Questo è il titolo molto forte, pagina 19 della Stampa, a dirlo sarebbe una che faceva la escort in questi locali, perché questo è l'altro strumento, l'altro nuovo particolare che arriva fuori, cioè modelle che poi in realtà facevano venivano qui magari a Milano per sfilare, ma poi finivano per essere a disposizione dei clienti facoltosi di queste discoteche. Tale Karima, 26 anni, mi è capitato di fare uso di cocaina insieme ad altre persone, tra cui Elisabetta Canalis. Mentre Anna Laura Ribas, perché qua basta sbagliare il nome e succede un disastro. Rettifico. Fernanda Lessa, modella brasiliana, secondo il Corriere della Sera, ha dichiarato che quando era in questi locali, nonostante non disdegnasse la coca, temeva che qualcuno la drogasse. Bisognava tenere sempre con sé il bicchiere perché potevano metterci la droga per farti diventare più accondiscendente ai rapporti sessuali. Insomma, un mondo, uno spaccato di mondo che ha coinvolto anche Belen, che ha detto sì un paio di volte, è vero, ho sniffato in passato, tanto che il sindaco di Sanremo, l'abbiamo sentito anche la Zanzara, subito ha detto via Belen da Sanremo, dovesse arrivare a Sanremo. Poi ha detto no, forse mi sono sbagliato, non è proprio come Morgan, ho letto le cose, non è proprio così. Cosa fa invece il Fatto Quotidiano? Giusto per chiudere su questo, mette questa vicenda in primo piano, notti bianche, Milano trema, questa è l'apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano, la vicenda di Belen Rodriguez, testimone dell'accusa, e fa tutto un focus con anche un titolo di prima pagina di un editoriale in prima pagina di Peter Gomez sulla figura di Lele Mora, un Lele Mora che sarebbe ritornato in auge dopo qualche caduta in disgrazia e che, scrive Davide Milosa a pagina 3, ecco il legame, Lele Mora è stato visto soprattutto l'ultima volta trionfale, accompagnato da vecchi amici, al concerto sulle guglie del Duomo il 19 luglio scorso in compagnia di Berlusconi. Cioè il Fatto utilizza questa inchiesta per dire droga, logge, inchieste, Lele Mora, Berlusconi. Vabbè, ci fermiamo qui. Quando sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua in diretta nuovamente a 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Ciao. Eccoci Deborah, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Soldi e Dintorni. Allora, noi questa mattina parliamo di anziani. Avevamo, per la verità, ieri pomeriggio confezionato il programma in una certa maniera, poi abbiamo appreso nel corso della serata e anche stamattina l'abbiamo visto da tutti i giornali che la cronaca ci ha offerto una triste sponda per affrontare questo argomento. Allora, intanto, agosto è alle porte, tempo di vacanze, purtroppo non per tutti, perché come ogni estate sono molti gli anziani che per svariate ragioni sono costretti a rimanere in città e accanto ai problemi pratici, come resistere al caldo, fare la spesa e passare anche un po' di tempo, ricompaiono anche fenomeni di delinquenza e truffa proprio ai danni di queste persone. E dicevamo, la cronaca e la sponda che ci ha offerto ha suscitato davvero un enorme scalpore nella storia di questa anziana malata di Alzheimer di cui si prendeva cura una badante di 39 anni, la vicenda è successa a Massa Carrara, ma insomma questa badante aveva dei metodi un po' curiosi per prendersi cura di questa persona perché la picchiava frequentemente e insomma il tema è che anche le immagini di questa situazione frutto delle riprese dei carabinieri, perché questa storia, la situazione di questa anziana praticamente era ovviamente tenuta molto sotto controllo dalla figlia, che si era resa conto che questa donna aveva dei lividi addosso, per cui aveva denunciato la storia alla squadra mobile di Massa, che avevano installato delle telecamere presso questa abitazione, e da lì insomma le immagini di questa vicenda che hanno fatto il giro di tutti i siti e che sono davvero qualcosa di toccante. Detto questo, accanto a questo caso terribile e che speriamo isolato, ci sono naturalmente altri episodi di vario genere. Non a caso l'associazione Adiconsum Lazio ha già ricevuto segnalazioni al proprio sportello di anziani spaventati che ora hanno paura anche ad uscire di casa, persino per andare in chiesa. Allora, intanto questi episodi ce li facciamo raccontare insieme ai rimedi da adottare, alle precauzioni da adottare, direttamente da Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum, che saluto. Premuti, buona giornata e benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno a voi. Ci racconta subito che tipo di segnalazioni avete ricevuto, quali sono i raggiri più diffusi ai danni di anziani soli, sempre, ma soprattutto in questo periodo? Sì, molto volentieri. Ecco, appunto come era la premessa, sembra assurdo, ma purtroppo bisogna rilevare tutta una serie di casi che si sono verificati, tra l'altro non in quartieri di estrema periferia, quindi in quartieri con disagi sociali, ma in quartieri semicentrali di Roma, e che purtroppo vanno a colpire proprio le persone ovviamente più indifese, e qui parliamo di anziani, in maggior modo di anziani soli, e i casi sono banali, semplici, eppure così complessi se poi riferiti alle persone che li subiscono. Parlo di una proposta, per esempio, molto semplice, del cambio di una carta moneta da 50 euro. È ovvio che in quel caso l'anziano che aderisce tira fuori il proprio portafoglio, inizia a fare il gesto per prendere soldi da 10 euro, da 20 euro, da 5 euro, ma gli viene sfilato il portafoglio, e qui la persona che si era presentata, in molti casi distinta, vestita molto bene, giacca e cravatta, gli prende il portafoglio dalle mani e scappa, e quindi l'anziano in quel caso rimane non soltanto senza i soldi, ma qui, e questo purtroppo si verifica quasi sempre, senza i documenti, e quindi con ulteriori disagi che poi saranno quelli da affrontare per rifare i documenti. Per non parlare poi dello spavento e del trauma che queste persone subiscono, e che ovviamente peggiora un po' la situazione. O addirittura del danno fisico che subiscono, perché ricordiamoci che un anziano in alcuni casi è in equilibrio precario, va a terra, e purtroppo le conseguenze possono essere quelle della rottura di un femore, che sappiamo perfettamente che cosa comporta nel caso di una persona particolarmente anziana. Mi ha colpito anche quest'altra modalità di azione truffaldina che circola, Premuti, quella di chi addirittura tira sassi alle auto con l'anziano a bordo per poi fargli credere che è stato protagonista di un incidente. Sì, assolutamente sì, questo è un trucchetto che veniva usato costantemente nell'urto tra i due specchietti delle vetture. Abbiamo avuto le forze dell'ordine che più volte ci hanno richiamato all'attenzione rispetto a questo trucco. Oggi si è trasformato in un urto diretto sulla vettura dell'anziano, che può essere provocato sì da un sasso o addirittura semplicemente dalla mano, il che richiama l'attenzione dell'anziano, lo fa scendere dalla macchina, e dopodiché con una serie di bellissime parole lo si convince a non perseguire la strada della denuncia all'assicurazione, perché costosa, perché le assicurazioni come al solito se ne approfittano, ma di riguadagnare lì brevi mano il danno causato, anche se non totalmente per mancanza di denaro contante nell'immediatezza, con quello che si ha dietro, i 30, 40, 50 euro. Ecco, ricordiamoci che noi parliamo comunque di persone anziane, il più delle volte che vivono con la pensione, e che sicuramente non hanno la facoltà di poter arrivare bene alla quarta settimana, a volte non hanno la facoltà di arrivare alla terza. Gli togliamo i 50 euro e gli togliamo anche il latte e il pane che comprano per mangiare normalmente. Allora, adesso daremo anche qualche piccola regola per poter evitare, se possibile, di incappare in disavventure di questo tipo. Prima però, Premuti, le chiedo un attimino di pazienza, perché volevo tornare invece qua, vicino a Radio 24, a Milano, perché se il problema di raggiri e truffe è estremamente diffuso, quello della gestione del quotidiano e della solitudine quando i parenti, se si hanno, sono in ferie, non è un problema da meno. Si tratta però di una questione che in alcune aree di Milano, perlomeno questa estate, dovrebbe venir meno. Perché? Perché a breve entra in azione la squadra dei personal shopper selezionati da Caritas Ambrosiana per il servizio di pronto intervento estivo. E allora questa mattina abbiamo disturbato per parlarci di questa iniziativa Don Roberto D'Avanzo, direttore della Caritas Ambrosiana. Don Roberto, buongiorno, ci spiega in cosa consiste questa iniziativa? Volentieri, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In realtà il titolo è, come dire, un po' altisonante, giornalistico, dice riferimento al mondo dei VIP che, avendo dei problemi a spendere il proprio denaro, si fanno aiutare da dei competenti accompagnatori che conoscono i loro gusti per poterli orientare appunto negli acquisti più raffinati e più interessanti. Questa idea l'abbiamo, come dire, rubata per applicarla a un servizio che svolgiamo in collaborazione col Comune di Milano ormai da 10 anni. Ogni anno d'estate selezioniamo un quartiere particolare della città per sostenere, affiancare appunto la vita quotidiana, come diceva lei, di anziani che non necessariamente poveri economicamente, ma poveri di relazioni, quindi appunto segnati da solitudine, segnati proprio anche dall'assenza anche temporanea dei loro congiunti, dei loro parenti. Quindi cosa faranno i volontari della Caritas che saranno in servizio? Ricordo anche le date, dal 2 agosto fino alla fine del mese, sì. Don Roberto. Sì, il periodo è questo qui, una trentina saranno gli anziani che il comune selezionerà, diciamo così, per fargli oggetto della nostra cura, e i servizi sono variegati, dal portare il pasto caldo del comune appunto a pranzo a queste persone e intrattenersi brevemente con loro, all'accompagnarli a far due passi, all'accompagnarli magari a fare anche qualche commissione, qualche spesa, all'accompagnarli dal dottore o per qualche visita specialistica. Ecco, questa idea di un rapporto personalizzato, di un rapporto appunto di vicinanza che senza grosse pretese, però almeno crediamo possa così attenuare il senso un po' di solitudine e di abbandono di queste persone. E questo è molto importante, peraltro, e per fortuna che almeno nelle grandi città si può fare tutto questo, perché immaginiamo invece cosa succede nei piccoli centri, che davvero diventano deserti in questo periodo, perché tutti vanno in ferie e molta popolazione anziana invece rimane veramente in balia di se stessa. Volevo tornare solo per 30 secondi, perché non ho più tempo, a Fabrizio Premuti della Diconsum. Abbiamo parlato dei possibili raggiri, citandone credo veramente solo una minima parte di tutti quelli possibili premuti, ma insomma, allora, gli anziani che volessero denunciare alle autorità quello che può capitare, cosa possono fare? La lucidità in questi frangenti è davvero relativa, ma magari i numeri di soccorso più noti si possono sicuramente chiamare. Premuti? Alcuni consigli molto semplici: innanzitutto diffidare di chi non si conosce, anche se si presenta molto bene, ben vestito. La seconda cosa, inserire se possibile nel proprio telefonino la chiamata di emergenza, preimpostando i numeri di soccorso che sono il 112, il 113, il 118. Qui un'attenzione particolare e un richiamo particolare anche alle forze dell'ordine, di ricordarsi di pattugliare non soltanto le strade, ma a questo punto i parcheggi dei centri commerciali, che solitamente sono i posti più a rischio nei casi proprio dell'anziano, nel momento in cui ha anche le mani occupate dalle borse della spesa, di pattugliare i piazzali antistanti le chiese, perché purtroppo questi fenomeni sono accaduti anche davanti le chiese, e un'attenzione da parte dei centri commerciali, quella di mettere anche delle telecamere proprio nei posti di parcheggio e nei piazzali antistanti. Mm-hmm. Ecco, questi sono dei consigli semplicissimi che io credo possano in qualche maniera aiutare queste persone che le troviamo particolarmente indifese rispetto a queste problematiche. Grazie a Fabrizio Premuti di Adiconsum e Don Roberto D'Avanzo della Caritas Ambrosiana. Devo immediatamente restituire la linea ad Alessandro Milan. Alessandro, eccoci qui. Noi oggi a Salvadanaio ritorniamo sul simpatico problema degli imprevisti domestici ad agosto. Se ci serve l'idraulico il 15 agosto, giorno di Ferragosto, che si fa? Sborsiamo un pacco di soldi? Si spera di no. Ecco, prima cosa. Innanzitutto. E poi. E poi ascolteremo oggi alle 12. Bravo, ciao. Allora, noi parliamo dell'immane fuga di notizie: 92.000 documenti segreti sulla guerra in Afghanistan, pubblicati da alcuni giornali mondiali con l'aiuto di un sito di controinformazione. Vi chiediamo, secondo voi, come dice il fondatore di questo sito, è giusto che il mondo sappia? E quindi è stato giusto far sapere, è giusto pubblicare, oppure, come dice il presidente Obama, si mette a repentaglio la sicurezza nazionale? Alle 8:32 minuti in questo istante, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo nel nostro sondaggio di oggi di Afghanistan. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Che non è solo parlare di Afghanistan, è parlare anche della guerra, è parlare di noi, è parlare dell'informazione, del giornalismo. Dopo che un paio di giorni fa il tre quotidiani mondiali, il New York Times, il Guardian e il Der Spiegel, grazie all'aiuto di questo sito di controinformazione wikileaks.org, hanno svelato 92.000 documenti riservati fino a pochi giorni fa sulla guerra in Afghanistan dal 2004 al 2009. Obama ieri si è detto detto preoccupato perché questi documenti potrebbero svelati, potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza anche dei soldati americani. Così anche il capo di Stato Maggiore delle Forze Americane Armate ieri, Mike Mullen da Baghdad, si è detto allibito per questa fuga di notizie. Sta di fatto che noi vi chiediamo, secondo voi è giusto, il mondo deve sapere, ha svelato questo Julian Assange, il fondatore di Wikileaks.org, il mondo deve sapere cos'è la guerra, oppure non si deve sapere tutto, oppure ci sono questioni di sicurezza nazionale. È stato giusto far sapere al mondo queste informazioni, svelare al mondo questi documenti? Ve lo chiediamo su radio24.it oppure 800 24 00 24. Intanto io lo voglio chiedere, la saluto, la ringrazio, a Lucia Annunziata. Buongiorno Lucia Annunziata, buongiorno, collabora con La Stampa, ieri ne ha scritto, ovviamente anche conduttrice in Rai. Senta Annunziata, ora Obama dice ma non si è saputo niente di nuovo, l'amministrazione americana dice non si sa niente di nuovo, i civili muoiono in guerra e si sa, il Pakistan aiuta i talebani, già si sapeva, e allora qual è la forza di aver rivelato questi documenti? Devo dire che questa posizione stranamente fammi fare un piccolo, ci diamo del tu, spero, visto che siamo colleghi, fammi fare un piccolo detour italiano, anche molti altri giornali hanno preso la posizione di Obama, giornali tra l'altro centrodestra, no? Uno il Foglio che dice che cosa abbiamo saputo di nuovo, no? È molto interessante la posizione di chi in questa situazione, Obama ha delle buone ragioni, non si capisce quali sono le buone ragioni degli altri di difendere questa cosa, cioè tutti sapevamo, ma una cosa è sapere, altra cosa è avere una carta che tu porti al governo del Pakistan e dici allora questo vostro generale Gold che cosa faceva a quell'ora, a quel giorno con questi signori? Cioè è come in tribunale, il giornalismo ha anche un obbligo di prova che purtroppo è stato smarrito, ma che è parte assoluta e fondativa delle sue. Una cosa è sapere che loro fanno perché alcune fonti in privato anonimamente te lo dicono e tu diffidi, altro dire ecco qua, sappiamo che questi signori organizzano loro i talebani, no? Qualcuno ha fatto il paragone con i famosi Pentagon Papers, quelli che cambiarono il corso anche del rapporto informazione guerra durante la guerra del Vietnam. È davvero così? Cioè c'è una possibilità che questo possa cambiare il consenso, possa minare il consenso da parte dell'opinione pubblica nei confronti di questa guerra? Ma secondo me, che poi ripeto che avevo scritto per La Stampa, secondo me il discorso è proprio questo, cioè quando escono, è vero anche in Italia, no? Quando cominciano a uscire dei documenti, cioè delle prove non sovvertibili, è evidente che qualcuno dentro l'amministrazione ha permesso in un modo o nell'altro che questa cosa succedesse. Quando giornali grandi come quelli fanno, vuol dire che lo volevano fare. Questa volontà è la parte molto più importante di tutto. Questa è la parte che dimostra che non si andrà più tanto lontano per coprire un'amministrazione. Che il problema di Obama è che questo è un colpo contro la sua credibilità presso grandi media, ancora prima che la sua credibilità sul terreno di guerra. È che una delle prime cose che si imparano è questa: nella guerra, nelle operazioni di guerra, la prima vittima è l'informazione, no? Questo spesso è scolpita come frase, si dice spesso. Se uno vuole. Se uno vuole. Questa è un'operazione che insomma. I giornalisti vogliono. Cioè, voglio dire, vediamo l'America, non ritorniamo alle cose italiane che sarebbe piuttosto penoso, ma insomma, voglio dire, quando all'epoca di Kennedy convocò tutti i direttori dei giornali e disse che lui stava preparando l'invasione a Cuba, e chiese che non uscisse, non uscì, non è mai più successo però, cioè voglio dire, i giornalisti possono scegliere, naturalmente c'è sempre durante la guerra la questione dell'interesse nazionale, ma le guerre sono un elemento troppo grosso perché poi alla fine veramente si debba decidere anche di metterci dentro l'informazione per combatterle, insomma, cioè si può fare, si può non fare, non è sempre così. Tra l'altro io voglio ricordare che nei nuovi sviluppi in questi documenti ci sarebbero anche delle prove dei legami tra l'Iran e i talebani, con Ahmadinejad che ha detto no, noi non finanziamo i talebani, ma insomma i rapporti sicuramente del Pakistan che fa il doppio gioco, e spesso si è detto, però ora è certificato appunto, ci sono sono delle, no, delle la cosa visite. Più grave è il doppio gioco del Pakistan. Del Pakistan. Questo tra... Le cose dell'Iran ci sono, ma l'Iran è ormai c'ha il ditino un po' in tutte le... Ma le cose avere il ditino, impicciarsi, girare intorno a un fiutare... Altro è, come dire, noi siamo lì, la NATO, voglio dire, questa dovrebbe essere una storia che scandalizza tutti, la NATO manda soldati, incluso noi, perché il Pakistan, perché il regime dei talebani non si allarghi al Pakistan, non lo si dice chiaramente, si dice che sia lì per Al-Qaeda, poi per la popolazione civile, ma insomma il grande, diciamo, posto che poi non deve cadere è il Pakistan, hanno la bomba atomica e questi fanno il tradimento continuo su loro che organizza. Allora, voglio dire, questo è il vero problema, poi il problema tutto dei droni, il problema della stupidità della guerra, cioè questo è una serpe in seno, lo sapevamo, ma oggi ci sono i documenti. Tra l'altro questo Julian Assange ha dichiarato alla domanda: ma lei non teme per la sua vita? Costui ha fondato appunto Wikileaks.org, ha detto: a me piace schiacciare i bastardi. Questa è stata la sua risposta molto netta. Voglio salutare anche, ci sta ascoltando, Edward Lutwak, buongiorno, politologo. Lutwak, buongiorno. Tra l'altro ha scritto anche La grande strategia dell'impero bizantino di Rizzoli, si parla anche di Afghanistan, così come saluto Andrea Nativi della rivista italiana di difesa. Buongiorno Andrea, ben ritrovato. Buongiorno. Lutwak, è davvero un Obama che dice: ma o l'amministrazione americana, sì, 92.000 file riservati, ma non c'è niente di nuovo, niente di... oppure è un duro colpo per l'America questa rivelazione? Questa rivelazione ha risolto una penosa contraddizione, perché i documenti non sono stati scritti da cretinoidi ex comunisti o da islamisti fanatici o islamisti in genere, sono stati scritti da ufficiali e funzionari americani. Scrivendo queste cose, loro si trovavano in una penosa situazione di informare uno l'altro senza poter informare il pubblico americano di queste cose fondamentali, cioè che il Pakistan, che è una variegata popolazione dove c'è anche gente abbastanza post-islamica che se ne schifano dell'Islam, è comunque governato da un regime che istituzionalmente è fanaticamente islamico, quindi non può cooperare con dei cristiani come loro vedono l'America o la NATO contro i talebani che sono musulmani, che fra l'altro loro hanno creato, come tutti sanno. Quindi questi funzionari, ogni volta che scrivono la parola Pakistan in pubblico, devono dire il nostro alleato Pakistan che riceve questi miliardi da noi e così via, perché c'è bisogno del... mentre privatamente sanno che sono traditori. Quindi, però, se lo dicono loro in pubblico, loro violano le regole del loro servizio, le norme che devono fare. Non è questione di perdere il posto, è questione che un ufficiale americano ha il dovere di mantenere la confidenzialità. Allo stesso tempo è un cittadino che voleva molto informare i suoi concittadini, però non l'ha fatto fino a che questo leak è successo e nessuno l'ha diretto, il leak era una singola persona, singolo individuo, un funzionario che ha passato le informazioni. Non pensate che questa è una furbissima maniera dell'amministrazione Obama, eccetera eccetera, non c'è furbizia qui, una persona ha detto il pubblico merita di sapere queste cose che ogni caporale sa. Seconda cosa, che l'Afghanistan si modernizza in 2-3 secoli, non in 10 anni, perché è totalmente viziato dall'Islam. Ma quindi mi sta dicendo, Lutwak, che secondo lei è quasi un toccasana, cioè una manna il fatto che sia uscita per l'amministrazione Obama? Questo perché ha risolto un vero problema. Mettiti te nella posizione, tu sei un generale americano, tu sai che l'esercito afghano consiste di gente che vengono per prendere un piccolo salario, poi vanno di metà, disertano nel raggio di 18 mesi, che è tutta una balla, perché un'istituzione come l'esercito si fa dopo che c'è un'istituzione chiamata lo Stato, e dopo c'è nazione, lì non c'è nazione, ci sono tagiki, azari, non c'è lo Stato, e quindi vabbè, queste, Sai queste cose da generale americano, sai che contro le regole del servizio per te di pubblicarlo sul New York Times. Però sai che il cittadino americano si merita di sapere che la guerra di Obama è una guerra sbagliata. E quindi speri che ci sia il Julian Assange che si impossessa di queste cose e dici, cioè secondo lei in questo momento... un funzionario ha violato le regole, uno. Sì, no, cioè secondo lei in questo momento all'amministrazione Obama qualcuno sta dicendo, oh, finalmente siamo riusciti no, a fare... No, guarda, ricordati come succedono le cose. Bush combatte la guerra in Iraq. E Iraq, dopotutto, vale perlomeno la provincia di Modena. In Afghanistan, che non vale neanche una provincia della Calabria, lui ci tiene pochissimi soldati e non cerca di vincere, perché vincere non è possibile, e non ci mette 30.000, 40.000 soldati, ne abbiamo 2.000, 3.000 che sono lì per tenere la pentola. Quando Obama fa la sua campagna elettorale, lui dice l'Iraq è la guerra sbagliata, perché l'ha fatta lui. E l'Afghanistan è quella. L'Afghanistan è la guerra santa, lì. Quindi copre dell'Afghanistan di molti complimenti che non merita, cioè il fatto che si può modernizzare, il fatto che si fa. E poi e tutto non c'è bisogno, perché Bush aveva trovato la formula economica, non da 7 miliardi. No, ma questa è interessante come lettura. Io vorrei andare per un attimo ad Andrea Nativi, prima di tornare dopo il traffico della Lucia Annunziata. Nativi, la domanda che però noi ci poniamo è interessante, la lettura di Lutwak è questa: è giusto no pubblicare? Tu avresti pubblicato questi dossier oppure? Ma guarda, il punto è questo, che quando ho informazioni sto abbastanza attento a quello pubblico e non pubblico, nel senso che se possono danneggiare la sicurezza delle operazioni militari in corso, la mia regola è non pubblico. Per il giornalismo americano si pubblica tutto, non sempre, perché poi il New York Times per esempio ha fatto selezione. La realtà è che questi documenti per fortuna si riferiscono al periodo 2004-2009, quindi sono relativamente datati, sì. E nel mondo militare dell'intelligence si parla di actionable intelligence. Allora, questa per i talebani è intelligence, ma non è per fortuna hot, cioè non è calda, non dà niente che loro non potessero sapere o non ha più valenza immediata. Questo è il punto fondamentale. È vero, non ci sono enormi novità, anche perché alcuni documenti riferiscono fonti di seconda, terza mano, non compromettono le fonti, e poi non è mica detto che dicano solo informazioni negative, cioè se uno legge un po' di sta roba. Le novità grosse sono l'abbattimento di un elicottero nel 2007 dovuto a un missile invece che a un razzo, ma è una cosa che interessa a noi tecnici più che al grande pubblico. Come si chiama la task force che elimina i capi talebani? Benissimo, adesso sappiamo 373, ma che ci fosse lo sapevano anche i sassi. Ho capito, ma come dice Lucia Annunziata, ora si sa, cioè voglio dire che il Pakistan facesse il doppio gioco, però adesso c'è scritto che il capo dei servizi segreti del Pakistan andava in Afghanistan a incontrare i talebani a dire mandate i kamikaze là, voglio dire. Fantastico, ma secondo voi questo elemento non è stato portato all'attenzione dei vertici pakistani? Cioè, i vertici pakistani e il dialogo americano-pakistano è costante, come i vertici pakistani fanno finta di non sapere che le forze speciali della CIA e non solo entrano... a livello di stati. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 70% di chi vota al sondaggio dice è giusto pubblicare tutto questo, Lucia Annunziata, mi sembra che qui si giri attorno al problema, nel senso appunto, ricordavi tu ieri Walter Cronkite, la vicenda del Vietnam con le critiche di Cronkite e la famosa frase, pare leggenda o non si sa, di Johnson, del presidente Johnson, che disse se ho perso Cronkite, cioè se anche lui è contro la guerra, ho perso l'opinione pubblica, cioè quasi il dramma di questo, cioè Lutwak addirittura ci dice che è quasi, traduco così, una fortuna che siano usciti per qualcuno, in modo che almeno abbiamo fatto sapere ciò che non potevamo, ciò che volevamo far sapere ma non potevamo far sapere. Io noto, diciamo, una diversa nota di interpretazione, non a caso, tra il nostro esperto americano e italiano che sono qui presenti. Lutwak, che essendo americano, come dire, mette innanzitutto avanti, come dice lui, il consenso, no? Cioè una guerra, un militare viene dopo uno Stato, e giustamente lui apprezza il fatto che l'America meritasse di meritasse di essere informato, come dice. Perché? Perché loro, che sono due, i nostri altri due ospiti, sono molto più esperti di me nella guerra, sanno la regola fondamentale: nelle guerre moderne non si vince se non c'è consenso, nelle democrazie non si vince se non c'è consenso. Allora, il problema di informare ha a che fare non tanto con l'idea di dire fanno bene, fanno male, i militari sono cattivi, i militari sono buoni, come spesso poi sentiamo nel dibattito sul pacifismo un po' all'acqua di rose. No, il problema è che i cittadini pagano, i cittadini mandano i loro figli, pagano le tasse per mantenere, credono nell'identità che un conflitto fa o meno, crea o meno in una nazione, e hanno il diritto di sapere, come se fosse un'azienda, se i loro investimenti stanno andando nel senso sbagliato. Ora, che gli stati sappiano delle malefatte reciproche, bene, ma che gli stati accettino e i cittadini accettino con loro delle malefatte reciproche non è discutibile. Cioè, tra l'altro, Andrea, scusa, mi sto riferendo al nostro esperto, una cosa è che ci sia la CIA che manda a fare delle hit list per i morti, altro è che tu hai il capo dei servizi segreti del Pakistan, come tutti sapevamo e nessuno poteva beccarlo, questo qui, che tradisce le nostre stesse truppe. Ma questo è altro tradimento, dimmi tu, che è una cosa così, sì, che tanto si sapeva. Tra l'altro è suicida da un punto di vista dell'America, quindi... Ha ragione peraltro Lutro anche a dire questo risolve un problema, perché a questo punto bisognerà fare pulizia. Consenso o non consenso? Allora sentiamo per esempio che ne pensa Antonio da Latina, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Antonio, buongiorno, ecco. Io ascolto di Radio 24. Ma queste piattaforme che pubblicano questi segreti non potrebbero essere esse stesse degli strumenti per fare controinformazione? Cioè, dove possono essere pubblicati volutamente dei documenti presunti top secret, ma che sono artefatti predisposti ad hoc, avvantaggiandosi magari dal clamore, dalla credibilità che episodi come questo che state raccontando possono aver dato, in maniera tale che l'informazione pubblica gli dia fiducia, si collega, prende questi documenti, ma che così non sono. Cioè il doppio gioco, insomma. Esatto, vabbè. Non è, guardi, però Antonio, io non lo so, per chi ha letto un po' la biografia di questo Julian Assange, che è il fondatore di WikiLeaks, che è lo stesso, per esempio, che un paio di mesi fa denunciò, fece vedere quel filmato, che ha fatto un po' scalpore, di un'operazione in Iraq in cui un elicottero americano sparava, poi si è scoperto, su civili, anche due operatori della Reuters, uccidendo un paio di giornalisti, uccidendo dei civili che erano lì, che non erano per nulla terroristi. Non lo so, insomma, vedendo la biografia del soggetto non mi sembra un po' strano che sia una persona, si definisce un pacifista, uno che è contro tutte le guerre, eccetera. Da questo punto di vista, Lutwak, in sé sapere che esiste una task force 373 che va a stanare i terroristi, sapere che c'è un filmato in Iraq in cui che si può vedere che i soldati americani sparano a dei civili, cambia qualcosa nell'opinione pubblica americana, nel cittadino americano che mette le tasse, i soldi per finanziare l'esercito? Hello? Lutwak, sì, mi ha sentito. Chiedo scusa. Sapere che esiste una task force 373, vedere che c'è un filmato in Iraq in cui si spara ai civili, cambia l'opinione pubblica, guarda, americana? Non di sparare ai civili e così via, devi capire che ci sono state guerre là. Ma la mia domanda questo non è significativo. No, ma Lutwak, la mia domanda è questa: vederlo con gli occhi cambia? Non vederlo con gli occhi, questa è una grande illusione. Addirittura. Pensare che vedere e non vedere, questa è la falsa letteratura, la falsa cosa del Vietnam, che lo vedi in televisione. In Afghanistan i sovietici combattevano senza un goccio di televisione, eppure la società sovietica ha reagito alla stessa maniera. Quelli della televisione hanno delle illusioni dell'importanza di queste immagini. Le immagini ti danno un'emozione transitoria di 3 minuti e poi non hanno vero effetto. Basta vedere l'Afghanistan sovietico senza televisione, eppure il pubblico reagisce esattamente come gli americani con Vietnam. Ma le immagini, i reportage, l'informazione non conta nulla. Cosa? Allora l'informazione non conta nulla, no, denunciarmi. Le piccole immagini, le piccole fotografie. Un giornale contiene migliaia di parole, ci sono 10.000 punti data. Con la fotografia vedi una smorfia, una faccia, una cosa. questa è una, non perdiamoci in questa delusione che le immagini contano quanto contano data e la quantità. Tu puoi vederti una notte intera di televisione e imparare meno come leggere una pagina del giornale. Questa è una questione di informatica, cosa c'entra con l'argomento importante qui è che in Afghanistan ci sono minoranze, non tanto minoranze, tagiki, uzbeki, azara, pronti a combattere i talebani se gli dai 7 milioni al mese. Quindi non fa senso di spendere 7 miliardi al mese nel folle tentativo di portare l'Afghanistan al XVI secolo. Quindi bisognerebbe dare i soldi e uscirsene. Cioè, ecco. Dare pochi soldi invece di spendere 7 miliardi di dollari al mese nel folle tentativo di modernizzare l'Afghanistan, di creare un esercito funzionante e queste idee quixotiche. L'alternativa è di ritornare alla politica di Bush, cioè di prepararsi ad armare i locali a resistere i fanatici. Armare i locali? No, no, ma questa è anche la teoria che lei ha esposto nel suo libro. Io vorrei, Andrea Nativi, anche magari una replica a Lucia Annunziata, quando dice, insomma, effettivamente il fatto che tra stati si parlino, tra Washington e Islamabad si parlino dicendo vedete che cosa succede, cosa fa il vostro generale, e vabbè, ma è una cosa che rimane tra stati, cioè la forza dell'impatto di farlo sapere a tutti noi, poi magari in Italia noi ci guardiamo l'ombelico, non ce ne frega assolutamente niente, ma altrove nel mondo dove magari queste cose le guardano, ci danno magari anche importanza a queste. Ma è una cosa che è evidente, è che le guerre e i rapporti tra stati sono e devono rimanere segreti, mica devono essere sciorinati in pubblico perché il pubblico deve sapere. Questa è una follia. Perché non succede da nessuna parte? Cioè, secondo lei dovremmo leggere le minute degli incontri tra ministri? In Italia sì, ma nel resto del mondo dobbiamo leggere tutto questo? Ma è ovvio che il cittadino non ha diritto a sapere cosa sta facendo nelle trattative, i rapporti politici che avvengono tra i vari governi. Non è mai successo nella storia e non accadrà mai. Questo ci dà uno squarcio, tra l'altro non a una parte diplomatica, una parte militare, è uscita, chi l'ha fatto ha commesso un reato. Ricordatevi che un tempo la corrispondenza dei soldati veniva letta prima di essere mandati, sì. Cioè abbiamo il mito del mondo e della comunicazione. Quello il mondo deve sapere, Julian Assange dice il mondo deve sapere, bisogna. No, ma lui fa benissimo il suo mestiere, anche perché così tra l'altro accredita Wikileaks e magari ci farà prima o poi qualche soldino, come succede in genere per queste cose, però non è una cosa che i governi amano e non lo ameranno mai. Ma questo quindi è chiaro, chi questo commette è chiaro. Un reato diffondendo documenti segreti o riservati verrà perseguito. Questo chi ha mandato, sì, infatti, il filmato verrà perseguito. E infatti è stata aperta un'azione penale da parte del Pentagono. È il minimo, no? Cioè, intendo, queste cose qui si chiamano riservate segrete mica perché a uno gli piace mettere lo stampino sul documento. No, ma questo sì, è il lavoro dei governi, il lavoro dell'informazione, cercare di appropriarsi, no, e svelarli. Poi se una volta vorrete parlare del perception shaping e di come si combatte la guerra dell'informazione da una parte e dall'altra, lo faremo. Io devo chiudere, Lucia Annunziata, ovviamente io mi sono perso un po' tra le beghe della Rai, a lunedì cioè a settembre ritornerai? Non lo so, non ho, anche il mio caso è aperto, io ho fatto conferenze stampa in merito, ma è aperto, cioè non si sa se vedremo ancora in mezz'ora su Rai 3, almeno con me non si sa addirittura, cioè c'è un cambio di... No, cioè nel senso io ancora non c'è firmato, io devo rinnovare totalmente il contratto della Rai e sto aspettando, vedremo che succede, non è che uno non si sposa con la Rai, come si dice, no? No, beh, certo, va bene, insomma, una mezza notizia. Grazie, veramente. In bocca al lupo anche a Edward Lutwak e Andrea Nativi per essere stati con noi, con Sara Spreafico in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Che dire, do la linea come di consueto a Oscar Giannino per le 9 e ci troviamo domattina 7:30 puntuali.